Salgo sulle corriere, senza biglietto in mano. Scappo da ciò che ho perso, lontano, verso le scogliere. Queste compresse in mano mandano via l'amaro col miele. Un benessere insano, essere umano quanto conviene. Quest'ansia frantumore, lo sento di persona. Mi ammazza il buon umore, più o meno ogni mezz'ora. Mi dicono è successo, è meglio forse un'altra direzione che stare chiuso al cesso come fosse un'altra dimensione. Non sopporto le persone, belle solo come coro. Se cercassi redenzione, forse sarei come loro. Con lei scrivo delle storie, ma so che in fondo sono solo. Corrosivo come scorie, sepolte in fondo al sottosuolo. Io non avevo un bel niente, a parte i problemi nella mia testa. Adesso da quando stanno nell'album sono di un altro, cosa mi resta? Anni di sbattimento, drammi che non ti elenco. Tagli da fronte a mento, sanguino forte svengo. C'ho più alcol che acqua. Immobile tra la gente che scappa. Che il rimorso le loro teste le strappa. Io non mi sono mai deluso dalle sostanze che uso. Fra quelle stanze rinchiuso scrivo che il portone, anche se continua a battere, è chiuso. L'amore per l'arte mi ha illuso. Paradiso, inferno, rotazione. Senza liste né consumazione. Triste consolazione di quando tua madre dice potevo abortire, tu le dai ragione. Una dea mi spegne la lampadina, mi lascia al buio davanti al vuoto. Dice giochiamo a chi salta prima. Mi guarda negli occhi con l'innocenza di una bambina che è capace di accartocciarmi la vita. Sorride e mi dice I don't hear what they say.